Eseguita la recitazione, il Musalli, alzando le mani nel gesto del takbir, mentre dice Allahu Akbar, si mette in posizione di inchino, rukua. Il busto è angolo retto e le mani sono appoggiate sulle ginocchia. In questa posizione recita tre volte Subhana Rabbi al-Azim, cioè dice Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Dopo la giaculatoria ritorna in posizione eretta mentre dice Sami Allahu liman hamida, e una volta ritto in posizione di Qiyam dice Rabbana lakal hamdu wa shukr. A proposito, Subhana Rabbi al-Azim significa sia gloria al mio Signore l'Altissimo. Sami Allahu liman hamida vuol dire che Allah ascolti colui che lo adora, e Rabbana lakal hamdu wa shukr significa O Signor nostro, a te appartiene la lode ed è dovuto il ringraziamento. Dalla posizione di Qiyam passa alla prosternazione, sujud, e nel prosternarsi dice Allahu Akbar. Il corpo tocca la terra con sette parti, la punta dei piedi, le ginocchia, le due mani e la fronte. In questa posizione recita Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Terminata la giaculatoria, passa nella posizione di Julus, cioè di seduta sul tallone del piede sinistro, ginocchia a terra e piede destro con la punta delle dita in avanti, se ce la fa, oppure sui piedi incrociati, quello destro su quello sinistro, oppure sui due talloni con le punte dei piedi rivolte in avanti. Mentre passa da una posizione all'altra, dice sempre Allahu Akbar. In questa posizione, cioè nella posizione di Julus, recita Allahumma ghafirli, cioè O mio Dio, perdonami. Poi, dicendo Allahu Akbar, torna in prosternazione e recita la giaculatoria, cioè Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. A questo punto ha termine la prima raka'a.